Focus Economia. Con Valeria De Rosa. Buon pomeriggio, ben ritrovati, sono le 17:10, nuovo appuntamento con Focus Economia. Oggi andremo in onda in versione leggermente ridotta per dare spazio a tutte le notizie relative alle elezioni amministrative e ai referendum, e quindi spazio in apertura nelle finestre all'interno dei giornali radio, e in chiusura noi ci fermeremo alle ore 18 per poi appunto lasciare spazio a uno speciale dalle 18 alle 18:30. Che temi approfondiremo quest'oggi? In apertura, in primo piano, molti dati sull'economia italiana, i dati sugli ordinativi e il fatturato sempre in calo, purtroppo ancora in calo, e poi Eurostat, come avete sentito anche nel corso del nostro giornale radio, ha diffuso i dati sulla pressione fiscale. L'Italia è complessivamente quinta in Europa, la prima però per tassazione sul lavoro. E poi la protesta a Lussemburgo degli agricoltori europei, di tutti gli agricoltori europei, per una maggiore politica di sostegno ai prezzi. Spazio ovviamente anche ai mercati. Andiamo subito a vedere che cosa sta succedendo. Una giornata piuttosto pesante quella di oggi. Partiamo dagli Stati Uniti, il Dow Jones in questo momento cede l'1,70%, il Nasdaq il 2,59%, lo Standard & Poor's il 2,19%. L'Europa fa anche peggio, Parigi cede un 2,74%, Francoforte cede il 2,48%, Londra il 2,38%, ancora più indietro Milano, dove il FTSE Italia All Share cede il 3,67%, il FTSE MIB il 3,74%. Per quel che riguarda i cambi, l'euro viene scambiato 1,38,73 sul dollaro. Vi ricordo il numero a cui potete inviare i vostri sms: 349-238-6666. Adesso tutte le notizie in breve. Cominciamo dal petrolio, apre in calo a New York a $67,76 con una flessione del 2,6%. I prezzi dei carburanti invertono la rotta con Agip che da ieri ha azzerato l'aumento di 4 centesimi sulla benzina ed è scesa di 2 centesimi sul gasolio. Il prezzo consigliato della Verde è così tornato a 1,320 euro al litro come una settimana fa, mentre quello del gasolio è sceso a 1,13. Sempre in merito di carburanti, saltano gli accordi sul prezzo massimo in autostrada. Dal 1 luglio prezzi liberi e pieno più caro. Lo comunicano le organizzazioni di categoria dei gestori delle aree di servizio autostradali, che confermano per l'8 e il 9 luglio lo sciopero nazionale degli impianti di rifornimento carburanti. Veniamo all'economia internazionale. Il presidente francese Nicolas Sarkozy ha iniziato a parlare davanti alle Camere riunite del castello di Versailles. La crisi economica non è finita, non sappiamo quando terminerà, ha detto Sarkozy. L'intervento del capo dello Stato nel Parlamento è stato reso possibile dalla modifica dell'articolo 18 della Costituzione decisa nel luglio dello scorso anno. E sempre in merito all'andamento dell'economia mondiale, ci sono ancora rischi di una improvvisa emergenza per una inaspettata turbolenza sui mercati finanziari. Questo è quanto ha detto il presidente della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, in un discorso a Madrid. Trichet ha però anche aggiunto: attualmente siamo ancora in una fase di discesa dell'economia, quanto ha detto il presidente, anche se ci sono i primi segnali che la debolezza dell'economia sta rallentando. Però dobbiamo restare in allerta, ha aggiunto Trichet, sottolineando che ci troviamo in acque non ancora esplorate. In Germania, terzo mese consecutivo di rialzo per la fiducia delle imprese tedesche. In giugno l'indice IFO, che misura il clima del mondo imprenditoriale, è salito a 85,9 dagli 84,3 di maggio. Il dato è migliore rispetto alle stime degli analisti, che si attendevano una fiducia a quota 85. In Italia adesso, mai come ai nostri tempi, il potenziale di crescita di un paese avanzato è dipeso dalle conoscenze e dalle competenze dei suoi abitanti. È il messaggio lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, in occasione della consegna del premio per lo studio della matematica e dell'informazione nella scuola media superiore. Restiamo in Italia. Il ministro dell'economia Giulio Tremonti: la riforma del federalismo fiscale è fondamentale, non è un progetto politico e sarà fatto anche perché ha grande consenso in Parlamento e tra le regioni. Così appunto il ministro dell'economia nel suo intervento al convegno della Fondazione dei Cavalieri del Lavoro. Sentiamolo. Il federalismo fiscale non è un progetto politico, è una riforma e sarà fatta. E devo dire sulla base di un grande consenso che c'è stato in Parlamento e con le regioni, ma sarà fatta. In questo momento metà del governo pubblico è irresponsabile perché non ha il dovere fiscale. La gira indietro e il governo centrale ha il dovere di rispondere per sé e anche per gli altri. E fino a che risponde per sé la meccanica è elementare e lineare, se tu devi rispondere anche per gli altri diventa un pochino più complicato. Allora io credo che se vogliamo davvero passare dal pensiero all'azione o capire cosa blocca e cosa serve, il federalismo fiscale vuol dire moralità, responsabilità, fiscalità e devo dire anche viabilità o dintorni. Per affrontare la crisi era possibile fare di più e diversamente, ma con i mezzi a disposizione abbiamo fatto le cose che potevamo fare nel modo più giusto possibile. Questo è quanto ha poi aggiunto il ministro dell'economia Tremonti, sempre nel corso dello stesso convegno organizzato dalla Federazione dei Cavalieri del Lavoro. E adesso noi veniamo al nostro primo tema di approfondimento, che si lega un po' a quanto dichiarato anche dal ministro Tremonti. Cerchiamo di capire qualcosa di più di questi dati relativi all'economia italiana e anche delle misure che sarebbero allo studio del governo per sostenere ancora l'economia. Partiamo dai dati Eurostat di cui vi avevamo accennato proprio in apertura di programma. L'Italia è il paese dell'Unione dove è più alto il carico fiscale sul lavoro. Questo è quanto ha reso noto oggi Eurostat in base al confronto effettuato sui dati relativi al 2007. Allora veniamo nel dettaglio. Secondo Eurostat le tasse e i contributi sociali rappresentano il 44% del costo del lavoro contro il 42,3% della Svezia e del Belgio che ci seguono in questa classifica. L'Italia è il quinto paese nell'Unione per pressione fiscale, quindi complessivamente siamo quinti in classifica con un 43,3% superiore alla media della zona euro di poco più di 5 punti. L'Italia inoltre è il quarto paese in Europa con la tassazione più elevata sulle imprese. Nel dettaglio però dobbiamo anche specificare la tassazione sulle imprese italiane è rimasta quest'anno stabile al 31,4%. Stesso livello dello scorso anno, quando però si era scesi dal 37,3%. Fisco più pesante solo per le aziende di Malta, Francia e Belgio. E questo per quanto riguarda il fisco, la pressione fiscale. Veniamo ai dati diffusi oggi dall'Istat, dati relativi al fatturato e agli ordinativi dell'industria italiana. Calo a due cifre per il fatturato dell'industria. Ad aprile è calato del 22,2% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso, negativa anche la variazione degli ordinativi con un calo del 32,2%. Per quanto riguarda la variazione su marzo, sempre marzo 2009, il fatturato ha registrato una variazione pari a zero, mentre gli ordini sono calati del 3,7%. A questo proposito però sentiamo la nostra scheda. La caduta rallenta, ma la strada per superare la crisi è lunga e difficile. L'ennesima conferma è arrivata oggi dai dati su fatturati e ordinativi di aprile. Il valore delle fatture emesse dalle imprese italiane è risultato in calo del 22% rispetto all'anno prima, mentre è rimasto invariato rispetto allo scorso marzo. Più dinamico il mercato nazionale, dove in un mese le fatture sono salite dell'1,1% a fronte di un meno 2,6% dell'estero. Quanto ai settori, sono andati particolarmente male con cali di oltre il 20% rispetto all'anno prima la meccanica, la chimica e il tessile abbigliamento. Purtroppo dagli ordinativi non sono arrivati segnali incoraggianti. Il loro valore complessivo è sceso del 32% su base annua e del 3,7% rispetto a marzo. molto male la meccanica, con ordini in picchiata del 44% rispetto all'anno prima, e la siderurgia, colpita da una flessione del 43%. Segnali positivi, invece, dal mercato interno dell'auto, con ordini in aumento del 4% grazie all'effetto degli incentivi, e dalla farmaceutica, che ha chiuso il mese con un più 3,4%. Un aiuto alle nostre imprese non arriva di certo dal fisco, visto che, come rileva oggi l'Ufficio Statistico Europeo, la pressione fiscale sulle nostre aziende rimane tra le più alte d'Europa. Nonostante il calo degli ultimi 10 anni, si colloca infatti al 31,4%, preceduta soltanto da Malta, Francia e Belgio. Se si guarda poi alla tassazione sul lavoro, l'Italia risulta addirittura prima a livello europeo. Tasse e contributi sociali rappresentano infatti il 44% del costo di un dipendente italiano, a fronte di una media della zona euro del 34%. Al di sotto della media, viceversa, il livello di tassazione sui consumi, 17,1% a fronte del 21%. Avete sentito qual è lo scenario in cui ci muoviamo? I dati sono sempre abbastanza negativi da un po' di mesi a questa parte. Ci sarebbero allo studio da parte del governo già da un po', quindi oggetto del lavoro dei tecnici del Ministero, alcune misure per cercare di sostenere ancora le imprese e l'economia. Come accade spesso in questi casi, abbiamo chiamato il collega del Sole 24 Ore, Dino Pesole, per cercare di capirci qualcosa di più e quindi di farci aiutare. Buonasera Dino, benvenuto. Grazie Valeria, buonasera. Allora Dino, si parla di alcune misure particolari, come ad esempio la detassazione degli utili reinvestiti, il bonus a tutte quelle imprese che non licenziano e poi anche dello scudo fiscale. Se ne parla già da un po', dovrebbero, e appunto usiamo il condizionale perché non si sa mai, arrivare in Consiglio dei Ministri venerdì. Secondo te siamo già in dirittura d'arrivo? Sono queste? Questo è il perimetro? Potrebbe esserci qualcosa di più o anche di meno? Beh, per quello che se ne sa, il decreto è esattamente in via, come dire, di formulazione, quindi i tecnici dell'economia lo stanno mettendo a punto nei dettagli. Si prospetta un decreto, un decretone, cioè una serie di provvedimenti molto corposi che in qualche modo possono essere assimilati a una sorta di anticipazione della finanziaria che verrà tra qualche mese, così come avvenne in sostanza un po' lo scorso anno. La misura che sembra più certa dalle indiscrezioni è appunto questa riedizione della legge Tremonti, che ricordo venne adottata sia nel 1994 che nel 2001, ed è sostanzialmente una detassazione parziale o totale, adesso questo lo vedremo nel dettaglio, sia dal punto di vista dell'IRES che dell'IRPEF, sì, degli utili che vengono reinvestiti dalle aziende, e dunque mi sembra evidente che questa è una misura in chiave assolutamente anticiclica, cioè si cerca, certo, di dare una spinta all'economia. Mi sembra ancora un po' problematico diciamo lo scudo fiscale, perché c'è il problema di concordare la misura esattamente nel dettaglio a livello europeo, quindi non è detto che questo provvedimento rientri nel decreto di venerdì, potrebbe anche slittare un po'. Per quanto riguarda, abbiamo accennato anche al bonus a chi non licenzia, su questo tema è intervenuto questa mattina il vicepresidente di Confindustria Alberto Bombassei, che ascoltiamo al microfono di Stefano Totoro. È un po' difficile dare un giudizio, personalmente penso che sia una cosa buona ma che non serva tantissimo, perché se un'azienda per un lungo periodo non ha necessità di produrre, non è certo l'incentivo che fa bloccare i licenziamenti. Le misure che oggi ci sono a livello di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, con le misure prese da Sacconi, credo che garantiscono comunque un periodo sufficientemente lungo perché si possa riprendere. Chiaro che se i tempi dovessero essere veramente così lunghi, francamente credo che non ci sia incentivo che tenga, e quindi un'azienda deve comunque ristrutturarsi, è quasi qualche cosa di un obbligo per fare questo. Allora Dino, secondo te c'è margine di manovra anche forse più esteso rispetto a questo, diciamo, sorta di detassazione degli utili reinvestiti, a questo bonus per chi non licenzia, visto che secondo le ultime, così possiamo chiamarle, indiscrezioni uscite da pochissimo, le entrate sarebbero in linea con quello che il governo si aspetta, o secondo te i dati non sono proprio così incoraggianti? Aspetterei di conoscere nel dettaglio i dati dell'autotassazione quando saranno disponibili. Per ora si tratta appunto di indicazioni di massima che danno una sostanziale tenuta, ma ricordo, rispetto a una caduta del gettito che il governo ha già previsto nei suoi documenti programmatici, che comunque è abbastanza rilevante. Quindi adesso appunto aspettiamo i dati definitivi. Il fatto che comunque il gettito IRPEF tenga mi sembra che già sia stato messo in luce ampiamente dai dati della Banca d'Italia. Il problema non riguarda tanto il gettito IRPEF, certo, quanto la caduta di altri elementi che compongono il gettito tributario, ad esempio la caduta dell'IVA, che mi sembrava rilevante nei primi 4 mesi. Però se dai dati relativi ai primi 5-6 mesi questa tendenza si fosse arrestata, sarebbe un'ottima notizia. I margini di bilancio sono molto ristretti, perché si tratta comunque di risorse che il governo dovrà in qualche modo recuperare, quindi non ce ne sono aggiuntivi, anche perché ricordiamo che noi abbiamo un deficit che è molto alto in presenza di un PIL che quest'anno avrà una caduta di oltre il 5% del PIL. Siamo, insieme ad altri paesi europei, sottoposti a una prossima procedura di infrazione per disavanzo eccessivo, certo. Abbiamo il debito pubblico che abbiamo, i margini sono stretti, però entro questi margini stretti qualcosa si può fare, perché poi le misure di cui stiamo parlando tutto sommato potrebbero attivare un percorso virtuoso, e dunque gli effetti positivi si vedrebbero anche sull'incremento del gettito e dell'occupazione nel medio periodo, auspicabilmente, perché questa è una scommessa e non è detto che poi le imprese decidano, come dire, di avvalersene. Ah beh, certo. Però come tutti i provvedimenti agevolativi, sono provvedimenti i cui effetti si vedono a consuntivo. Comunque è un fatto importante che il governo stia pensando a stimolare la crescita, certo, per superare la crisi. Tra l'altro tu dicevi sicuramente i margini sono piuttosto ristretti, il vicepresidente di Confindustria Bombassei ha auspicato anche altre misure, comunque tenendo dentro anche l'agevolazione in qualche modo degli investimenti, ma comunque ha detto la crisi è piuttosto è talmente di dimensioni talmente ampie che richiederebbe interventi più grandi. Sentiamolo. La dimensione della crisi richiederebbe senz'altro cose molto più grandi, però così come abbiamo apprezzato, almeno come Confindustria, tutte le cose che sono state fatte a livello di misure come ammortizzatori sociali, che credo abbiano giovato a quantomeno tenere un po' gli animi tranquilli per chi non ha delle previsioni molto positive, così tutte queste misure che vanno a incentivare gli investimenti sono assolutamente auspicabili, e quindi se si faranno saranno sicuramente un aiuto a investire soprattutto per la parte produttiva, e quindi cercare di far ripartire i consumi, far ripartire la produzione, che in questo momento sono, se no, chi non è fermo, quantomeno a grandi rallentamenti. Dino, ti chiedo l'ultima considerazione, perché è arrivato un sms al 349-238-6666 di un ascoltatore che ci chiede se parliamo di scudo 3, e come dicevamo poc'anzi è una misura che, per la quale forse bisognerà aspettare ancora qualche settimana, per cui è ancora un po' presto, bisognerebbe un po' parlare su ipotesi, anche perché ancora non è definita l'aliquota. Il problema dell'aliquota è fondamentale. Si sta ragionando su un range che va dal 4 all'8% per i capitali che rientrerebbero, ed è sicuramente una percentuale decisamente più alta rispetto alla precedente edizione dello scudo fiscale, che ricordo prevedeva un'aliquota molto bassa, era del 2%, quindi questo è un aspetto non secondario, ma soprattutto da quello che si sa sono in corso, diciamo, dei contatti tecnici tra il governo e la Commissione europea per verificare che non vi siano, diciamo, in qualche modo degli ostacoli a Bruxelles, perché ovviamente queste sono norme che vanno concordate preventivamente. Potrebbe anche essere esserci un via libera anche in settimana, però è difficile prevederlo. Quello che si sa è che il governo ci sta pensando e molto probabilmente ci sarà una riedizione dello scudo. I tempi forse non saranno proprio così immediati. Grazie a Dino Pesole in collegamento da Roma, a lui buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. minuti, ben ritrovati in compagnia di Focus Economia. Adesso è il momento di andare a vedere che cosa è successo sui mercati. Da subito il benvenuto a Corrado Poggi, collega di Radio Cor, che oggi ci aiuta a capire meglio questa seduta. Buon pomeriggio, Corrado. Buon pomeriggio a voi, grazie. Una giornata direi da dimenticare. Allora, partiamo dagli Stati Uniti. Il Dow Jones cede l'1,90%, il Nasdaq il 2,59%, lo Standard & Poor's il 2,24%. L'Europa, Parigi, meno 3,04%, Francoforte meno 2,97%, Londra meno 2,33%, Milano, qui nota molto dolente, il FTSE Italia All Share ha ceduto 4 punti percentuali, il FTSE MIB meno 4,17%. Corrado, c'è qualche motivazione particolare per questo brusco calo di inizio di settimana? Beh, si stanno tornando le incertezze e inquietudini per il futuro dell'economia. Oggi la Banca Mondiale ha ridotto ulteriormente le stime per il 2009 per le principali economie avanzate, ma anche per i paesi in via di sviluppo. Rimangono in crescita paesi come la Cina e l'India, ma tolti questi due motori, il resto dell'economia mondiale appare in difficoltà. E questo è stato chiaramente recepito con grave nervosismo dai mercati. E quindi i dati lo dicono chiaramente. Allora, tu dicevi i giudizi della Banca Mondiale che hanno pesato anche sull'andamento dei petroliferi. Diciamo subito che oggi a Milano sono pochissimi i titoli che sono riusciti a chiudere la seduta con il segno più. Comunque, tra quelli che sono andati male ci sono anche i petroliferi. Sì, esatto, perché oggi il petrolio, sia il Brent che il NYMEX, il WTI quotato a New York, sono scesi sotto i $68 barile, in ribasso di oltre $2 rispetto alla chiusura di venerdì, e quindi chiaramente questo ha pesato sulle quotazioni dei titoli del comparto. Eni, fra questi titoli, ha perso il 3,20%, quindi considerata giornata è anche una performance abbastanza, diciamo, accettabile. Via. Poi oggi Eni oggi era l'ultimo giorno per adesione al bond, che è andato bene, quindi questo ha sicuramente contribuito ad attenuare. Certo, ha avuto delle piccole ripercussioni ovviamente. Allora, tra gli altri titoli che sono andati male, diciamo subito che il peggiore è stato Saipem, meno 6,76%, giù anche Fondiaria Sai, meno 5,82%, Pirelli ha ceduto il 5,65%, tra i peggiori c'è anche Fiat, meno 4,76%. Sì, la Fiat in realtà oggi c'era un elemento di così positivo, perché l'ambasciatore italiano in Germania, Antonio Puri-Purini, aveva detto che a suo parere i giochi per la Opel sono ancora aperti e che ha registrato lui un cambiamento di posizione nel corso delle ultime settimane, quindi forse si riapre quel capitolo. È chiaro però che il peggioramento dell'outlook dell'economia pesa in particolare sui produttori manifatturieri, quindi i produttori di auto. A questo si aggiunge il fatto che Standard & Poor's ha tagliato il giudizio sul debito di Renault, però queste sono misure che poi incidono sull'intero comparto. Beh, certo, ovviamente sono notizie che poi si riflettono un po' appunto su tutto il settore. Male anche banche e assicurazioni. Oggi veramente è molto difficile capire quali settori possono essere andati meglio di altri. Comunque, male banche e assicurazioni. Spiegazione così data in generale dagli esperti, che sono i titoli che nel corso delle ultime settimane, dai dai minimi di marzo poi ai massimi di maggio sono quelli che hanno registrato i maggiori rialzi, quindi in questo momento di frenata sono anche quelli che poi pagano di più la corsa ai realizzi di profitto. Essendo poi Milano particolarmente pesantemente esposta ai titoli bancari, tra l'altro uno dei peggiori è proprio Unicredit, che ha ceduto il 5,03%. Esattamente, sì. Allora, positivi però dicevamo pochi, ma comunque qualcuno c'è. Il titolo migliore è stato Ansaldo, più 1,5%, Campari più 1,48%, Terna più 0,73%, Snam Rete Gas più 0,40%, Geox più 0,15%. Corrado, sono titoli abbastanza eterogenei tra loro come comparti. Qual è la motivazione che ha premiato questi titoli e non altri? Probabilmente è semplicemente una corsa così, a diversificare il portafoglio, quindi si cercano dei titoli che offrono maggiori potenziali di rialzo, e così non c'è veramente, secondo me, una logica precisa, ma semplicemente un riposizionamento, vendita di finanziari e acquisto di altri titoli in altri comparti. E infatti sono pochissimi, sono, come dicevamo, piuttosto diversi tra di loro. Vi dico subito sotto: Mondadori ha ceduto lo 0,46, Mediaset lo 0,62, Finmeccanica poco più di un punto percentuale, così come l'Automatica, e poi iniziano ribassi più pesanti: Intesa San Paolo meno 1,32, Telecom Italia meno 1,43, Mediobanca meno 1,72, Generali meno 2,27, Alleanza meno 2,35. Come dicevamo, il comparto bancario e assicurativo ha molto sofferto. Corrado, vorrei chiederti un caso particolare che tiene un po' viva l'attenzione sul listino generale da qualche tempo a questa parte, la Roma. Sì, oggi la Roma non riusciva a entrare in quotazione perché c'era un eccesso di rialzo teorico, poi è entrata e faceva un più 13% e credo che abbia chiuso in rialzo di circa l'8%. Continuano chiaramente le speculazioni su quando verrà finalizzata questa vendita al gruppo guidato dall'agente FIFA Vinicio Fiorinelli. Sembra ormai questione di ore, quindi è chiaro che chi punta sull'operazione oggi ha comprato il titolo sperando che venga annunciata nell'arco delle prossime ore. Anche perché oramai è diventato una sorta di tira e molla. Noi pensavamo che per oggi fosse già cosa fatta, invece ancora non è così. Sì, le ultime informazioni dicono che dovrebbe essere fatta per domani, però giustamente bisogna attendere per vedere. E va bene, allora vedremo che cosa succederà. Tra l'altro sono personalmente molto interessata, essendo io una romanista, ma sapremo qualcosa di più, speriamo, a questo punto nei prossimi giorni. Vi ricordo, grazie a Corrado Poggi intanto per essere stato con noi e per averci illuminato su questa strana giornata di borsa molto nervosa, che ha visto Milano chiudere come piazza peggiore in Europa, con, ve lo ricordo, il FTSE Italia All Share che ha ceduto poco più di 4 punti percentuali, il FTSE MIB 4,17%. Grazie a Corrado Poggi, a lui buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Alle 17:44 minuti circa abbiamo archiviato la pagina dei mercati, e noi piuttosto triste quest'oggi, e andiamo a parlare di prezzi dei prodotti agricoli. Qui ovviamente c'è anche il latte, che è una nota dolente, un nervo scoperto per noi. Che cosa è successo oggi? È successo che migliaia di agricoltori, con delegazioni anche dall'Italia, hanno manifestato il loro malcontento a Lussemburgo contro questa crisi del mercato, ma non solo del latte, in generale dei prodotti agricoli, che ha messo in ginocchio non pochi settori. L'auspicio è che i ministri dell'agricoltura dei 27 al Consiglio europeo, che si svolge oggi e domani proprio a Lussemburgo, premano sulla Commissione europea perché presenti entro breve, al massimo entro i prossimi 2 mesi, un'analisi approfondita del mercato, opzioni per stabilizzare non solo il comparto dei prodotti lattieri ma anche altri comparti, per rilanciare, per sostenere alcuni prezzi. Che cosa succede? Che i 27 dovranno vagliare le soluzioni. in particolare per quanto riguarda il settore del latte, per non toccare il complicato nodo delle quote che sono già state riviste nel novembre scorso e che al momento assegnano all'Italia una produzione pari al 60% della richiesta nazionale. In particolare per quel che riguarda il settore latte, che cosa succede? La produzione di latte made in Italy è pari a oltre a quasi 12 milioni di tonnellate, oltre 40.000 le aziende produttrici. L'andamento dei prezzi all'origine ci dice che a maggio c'è stata una flessione del 13% per latte e prodotti caseari sul maggio del 2008. Il prezzo del latte italiano è il più basso rispetto agli ultimi 15 anni, è di almeno 10 centesimi più basso rispetto agli altri paesi dell'Unione Europea. Questa mattina a Lussemburgo a protestare c'era anche il presidente di Confagricoltura, Federico Vecchioni, che noi siamo riusciti a contattare prima che si imbarcasse per tornare in Italia. Sentiamolo. Gli agricoltori europei sono stati caratterizzati in queste settimane, in questi mesi, dagli stessi problemi, da un crollo dei prezzi per tutte le grandi produzioni continentali ed europee, dal latte alla carne alle produzioni olivicole, e da un'impennata dei costi. Oggi il Consiglio dei Ministri con la Commissione deve mettere in atto una serie di misure urgenti per la gestione dei mercati, perché l'apertura indiscriminata alle importazioni ha generato in diverse situazioni una condizione critica per la sopravvivenza delle imprese agricole europee. 11 milioni di agricoltori sono stati accomunati da una manifestazione che era un grido d'allarme sia verso la Commissione che verso gli Stati membri per riattivare gli strumenti che dovrebbero consentire una tenuta dei prezzi all'origine per le produzioni agricole europee. Questa protesta vi vede allineati tutti insieme oppure ci sono dei paesi che invece si trovano in una posizione tra virgolette privilegiata? Ma i paesi, gli agricoltori europei oggi attraverso il COPA, che è il nostro coordinamento delle organizzazioni professionali agricole europee, hanno aderito in maniera assolutamente coesa e congiunta alla manifestazione. Non ci sono differenze tra chi ha aderito da poco all'Unione Europea e tra i paesi fondatori, perché gli agricoltori condividono una gestione dei mercati che è figlia anche di un'apertura del mercato europeo, che è ancora il più ricco e solvibile, in modo assolutamente, a nostro avviso, indiscriminato. Soffrono le commodities, ma soffrono tutte le filiere agroindustriali che risentono di una dinamica internazionale assolutamente negativa. Da dove arrivano le minacce più forti? Beh, per quanto riguarda le produzioni che oggi hanno segnalato la maggiore preoccupazione, certamente i comparti più negativi sono sicuramente quello del lattiero caseario, così come quello della carne suinicola e il comparto dei cereali. È chiaro che questi sono legati a importazione da paesi come l'America Latina, il Canada per quanto riguarda i cereali, ma anche in particolar modo per i prodotti lattiero-caseari da Australia, Nuova Zelanda e quindi da quelle aree in cui il consumo ha avuto una contrazione, ma guarda all'Europa come mercato di sbocco. C'è ancora un problema relativo alle quote latte? Ma guardi, le quote latte hanno confermato quasi paradossalmente la loro validità, cioè se vengono interpretate come meccanismo di gestione del mercato assumono una rilevanza sotto profilo dell'equilibrio costo-beneficio, non solo per il produttore ma anche per il consumatore. Laddove questo subisce uno squilibrio dovuto al fatto che i meccanismi di produzione vengono ad essere assolutamente privi di reti di sicurezza, si determinano uno squilibrio tale da compromettere definitivamente la componente produttiva e quindi il meccanismo delle quote ha rilevato quasi paradossalmente un dato assolutamente di controtendenza rispetto alle attese, perché la gestione dei mercati passa appunto non solo dall'apertura di nuovi mercati per nuovi consumatori, ma anche da una gestione della produzione. L'ultima domanda sempre relativa alle quote latte. Non c'è un disequilibrio anche qui da noi in Italia tra coloro che hanno pagato e coloro che non hanno pagato all'interno dei produttori? Ma guardi, il tema delle quote latte per l'Italia è stato un tema critico anche in questi ultimi mesi. Devo dire che l'attuale assetto normativo dovrebbe definitivamente consentire la normalizzazione del settore. Non è oggi un problema di equilibrio tra soggetti, ma è diventato di fatto oggi un problema di equilibrio di mercato. Perché nel mercato italiano arrivano ingenti quantitativi di latte dai paesi, soprattutto dell'est. Il meccanismo della polverizzazione, che per la Germania ha consentito in questi anni di inviare un notevole quantitativo di materiale sia in Russia che in Asia, è venuto meno e quindi c'è un eccesso di materia prima. L'eccesso di materia prima determina naturalmente, fisiologicamente, il crollo del prezzo. E c'è da registrare anche una dichiarazione del ministro Zaia, arrivato oggi appunto al Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura Europea a Lussemburgo. Di fronte alla crisi del latte, ha detto Zaia, siamo qui con un unico pensiero, 40.000 stalle da salvare, cercando soluzioni forti, soluzioni di mercato, ma che diano anche una visione produttiva per il futuro. Se continua così, infatti, nel giro di un anno, ha detto Zaia, si cessa la produzione. E adesso invece noi cambiamo totalmente argomento, un argomento che potreste così appena ascoltato pensare che si tratti di un alleggerimento. Non è così, perché parliamo di un aspetto della criminalità molto particolare, parliamo di zoomafia. Ne parliamo perché oggi è stato presentato il rapporto Zoomafia 2009 della LAV, la Lega Antivivisezione, e che cosa ne è uscito fuori: che da corse clandestine di cavalli, traffico illecito di cuccioli di cani dall'est Europa, saccheggio del mare, fauna esotica protetta, la cupola del bestiame, tutto questo vale 3 miliardi di euro, un calcolo per difetto e non per eccesso, e questo è il fatturato delle cosche della criminalità organizzata specializzata. Abbiamo raggiunto Ciro Troiano, che è il curatore del rapporto. Anche per quest'anno la quantificazione del giro d'affari della zoomafia si aggira appunto intorno a 3 miliardi di euro. Bene precisare che si tratta di stime approssimative, che non hanno la pretesa di essere esaustive, e che ci sono altre stime fatte ad esempio da altri enti, che addirittura per alcuni filoni triplicano questo tipo di business. Innanzitutto ci sono le scommesse clandestine e le legalità del mondo dell'ippica, che da sole fanno quasi un miliardo di euro, cioè un fenomeno sicuramente molto, molto preoccupante sotto il profilo anche economico. Basti pensare che le attività illegali nel mondo dell'ippica e soprattutto le corse clandestine di cavalli si sono raddoppiate rispetto al 2007. Poi ci sono le ancora preoccupanti, le adulterazioni alimentari. Nel 2008 abbiamo avuto un vero e proprio un allarme sociale legato al fenomeno di adulterazione, come la vendita di prodotti alimentari di origine animale contraffatti e i sequestri delle forze dell'ordine, nasce dei carabinieri in particolare, del corpo forzato dello Stato, dimostrano come i controlli ci siano, ma dimostrano altresì che si tratta di un fenomeno pluri-offensivo, capace di rispondere danni partendo dagli animali, prime vittime di questi malfattori, fino alla salute e alla sicurezza pubblica. Ancora poi il traffico di fauna esotica, coralli, tartarughe, pappagalli, addirittura ci sono stati casi di sequestri di leoni, anche nei combattimenti fra cani, che fino al 2007 sembrava un fenomeno fortunatamente in totale discesa. Nel 2008, guarda caso, ci sono stati 3 arresti e sequestri di cani di combattimento. Per quanto riguarda il traffico di animali, anche cani, che arrivano dall'est Europa, che cosa possiamo dire? È un fenomeno sicuramente in crescita, è per i numeri degli animali coinvolti, è per i sequestri effettuati, ed è un fenomeno che contribuisce un poco al business illegale. Basti pensare che questi importatori, questi trafficanti, acquistano nei paesi dell'est, la Jugoslavia, la Slovacchia, la Slovenia, oppure la Ungheria, cani, tra virgolette, di razza a 20-30 euro, e li spacciano come cani nati in allevamenti italiani con falsa documentazione e li vendono a 1000, a 1100, in alcuni casi a 1200 euro ad animale. Che tipo di organizzazioni criminali sono queste? Cioè, si dedicano solo a questo tipo di attività criminale oppure hanno altri interessi e questo è una parte, un aspetto dei loro affari? Dipende dai filoni della zoomafia. Se noi parliamo della macellazione clandestina o delle illegalità nel mondo della pesca, beh, lì abbiamo anche i classici sodalizi mafiosi, ma se vedere le indagini d'antimafia, per dimostrare ad esempio come i Santa Paolo siano implicati nelle gare, nelle gare nel mondo dell'ippica, o gli stessi casalesi nella vendita di sostanze alimentari o addirittura di carne per i macelli, e altri clan coinvolti nel controllo dei mercati. Poi ci sono gruppi specializzati esclusivamente per alcuni fenomeni, tipo quelli dei cucci dell'est. Ci sono vere e proprie associazioni per delinquere, composte da allevatori, da importatori, in alcuni casi da veterinari collusi. L'avete sentito, un giro d'affari che supera i 3 miliardi di euro e, come dicevamo, queste sono stime per difetto e mai per eccesso. Per oggi il tempo a nostra disposizione finisce qui, lasciamo lo spazio al giornale radio e poi allo speciale sulle amministrative. Io ringrazio in redazione Barbara Bianchi e Mauro Del Corno, in regia Pietro Lacorte. L'appuntamento con Focus Economia è per domani. Focus Economia.